vs. Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Remedy. Buona serata a tutti, 20 e 14 minuti primi su Radio Città del Capo 94.7, 96.25 su Lettere Bolognese, oppure siete in streaming su rcdc.it, insomma ci state ascoltando, gentili ascoltatori e ascoltatrici. Buonasera, dottor Scarpa. Buonasera a tutte e a tutti, anche a lei, Babe, buon Babe, stasera di chi parliamo, Babe? Questa sera magari qualcuno li avrà riconosciuti, perché all'inizio degli anni 90 e poi per tutti i 90 i Black Crowes, ebbene sì, sono loro, ebbero un buon successo, forti del revival nascente, forti della produzione di Rick Rubin, giravano molto anche sulle TV musicali. Ma ce ne parlerà più diffusamente un ospite, come potremmo definirlo? Sino-barese, sino-pugliese. Comunque, il dottor Torachichi è qua con noi. Buonasera. Buonasera a tutti. Cosa ti volevi dire nippo-barese? Nippo-barese, scusate, ho detto sino e sono in cinese. No, scusate, ho sbagliato. Chiedo venia. Nippo-barese, Torachichi. Autore di un disco che sentite in sottofondo, ma anche grande conoscitore di blues rock. Adesso non ho mai capito come, ma ci spiegherà perché. Non ho mai capito come sono un conoscitore di blues rock, ascoltando i dischi. Ma poi fai musica elettronica? Ma quelle sono scelte artistiche, però ogni musicista, secondo me ogni compositore, deve ascoltare tutto, più cose che si può. E soprattutto rock blues. E poi se vuoi imparare a suonare il basso, la chitarra, la batteria, a cantare, il blues rock è una tappa cruciale. Oh, Allora, un po' di storie. Black Crowes esordiscono nel 1990, eppure direte voi, questi suoni altro che 1990, sembrano del 1970 o anche prima. Ed effettivamente al loro esordio ricordo che furono abbastanza sorprendenti agli occhi di un ragazzetto, agli orecchi soprattutto, ma anche agli occhi, perché pure la loro estetica risaliva a quell'epoca, erano qualcosa di incredibilmente nuovo e fresco, è vero, era appena uscito remaster delle Zeppelin, anche le Zeppelin negli anni 80, figuratevi, erano andati nel dimenticatoio, non so chi se lo posso immaginare adesso nel 2016, ma non si fidava più di tanto nessuno, perché usciva, era uscita per un paio di decenni, erano usciti un sacco di altri dischi, c'era stato il punk, bla bla bla. Escono dal nulla questi Black Crowes, giovanissimi, ragazzi di 20 anni, che fanno un genere assolutamente desueto, eppure molto bello, molto fresco, quasi a voler dire, beh, ormai dopo tanta spinta verso il futuro, proviamo a ripescare il passato. E dopo appunto tutti i suoni sintetici del decennio precedente, ricordiamo che gli anni 80 sono stati sicuramente gli anni dell'hip hop, del rap, quindi musica di base con batteria elettronica come minimo, e linee di basso, scusate, anch'esse elettroniche, e poi tutto il synth pop, la disco music, la house, la techno, quindi un'impronta futuristica notevole, erano i suoni che andavano per la maggiore. Questi suoni dei Black Crowes invece erano fatti, immagino poi il dottor Torachichi mi correggerà, con amplificatori, chitarre, bassi, tutto rigorosamente adesso diremmo vintage. Valvole prima di tutto. Quasi solo valvole, ma analogiche. Però tu devi considerare che a parte i synth, l'elettronica, il punk, il post-punk, eccetera, in America c'era sempre quel caro vecchio country rock, southern rock, blues rock che non è stato mai dimenticato. Solo che secondo me per il nostro pubblico, le nostre orecchie di alternative rockers e indie rockers suonava desueto. Ma questo Rick Rubin, come hai citato tu prima, l'ha capito benissimo. Da bravo furbone, non solo quindi, aveva lanciato, che appunto, ne so, accanto gli a Slayer, Beastie Boys, e agli Slayer, via. Run DMC, e dopo Slayer, Black Crowes, ci andavano benissimo. Yeah. Don't you think I want to? Don't you think I would? Don't you think I'd tell you, baby, if I only could? Am I acting crazy? Am I just too proud? Am I just plain lazy? Beh, insomma, c'è poco da fare. Avete sentito addirittura un gospel, più roots, più revivalistici di così, che dire, e poi con un esordio. Si sentiva anche, registrato con suoni belli grezzi, non erano certi suoni levigati degli 80, ma sì, come diceva il dottor Torachicchi, c'è poco da fare. Negli Stati Uniti il country blues e il rock blues probabilmente neanche tanto sotto traccia, ma erano rimasti. Cioè della serie gli Allman erano ancora in giro, Willie Nelson nel 1900, negli anni 80 suonava ancora, chiaramente non entravano in classifica e sicuramente non arrivavano tanto facilmente in Europa. Considera che è un esordio da 5 milioni di album venduti, quindi quelli magari non entravano in classifica, ma questi sì. I Black Crowes entrarono a palla in classifica, tant'è che avevano video ed erano praticamente in quelle che poi chiameremmo i video rotation su MTV e si vedevano anche qua in Italia su Video Music. Ed era molto molto strano. In mezzo non era ancora esploso del tutto il grunge, Nevermind non era ancora uscito e loro erano una nuova, era qualcosa di vecchio ma nuovo. Sì, considera che questo disco è del 90 se non sbaglio. Quindi stiamo parlando diciamo di Facelift o di Bleach forse di Nirvana. Sì, che vendevano poche decine di migliaia di copie, mentre loro esordirono, è vero, grossa produzione, abbiamo ricordato prima Rick Rubin, che si è inventato la sua etichetta a metà anni 80 nella cameretta del College della Columbia, e aveva fatto già da lì un gran botto con i Beastie Boys, con i Public Enemy, quindi producendo hip hop, ma poi producendo comunque un genere che stava esplodendo letteralmente, cioè era impossibile non produrlo. LL Cool J era già in giro, insomma. Poi abbiamo anche Matteo che magari qualcos'altro ha da dirci su Rick Rubin e sulla sua idea di revival, perché poi non si fermò ai Black Crowes. Sì, infatti i Black Crowes furono, come dire, la prova generale prima del grande sdoganamento di Johnny Cash. Johnny Cash veniva da anni di dimenticatoio di dischi anche abbastanza brutti. E nel 1993 venne riscoperto, riportato alla ribalta dagli U2, che gli fecero cantare The Wanderer, mi pare, l'ultimo pezzo di Zurop. E l'anno dopo, nel 1994, Rick Rubin gli produsse la prima, il primo episodio degli American Recordings, un disco composto quasi interamente da cover, in cui si venivano ripescati pezzi del passato, ma anche del passato più recente. Ci furono anche negli anni diversi episodi con cover di Will Oldham e altri più recenti dei classici del passato, comunque riletti con la stessa andatura, la stessa voce, che allora era molto deteriorata, diciamo così, sembrava la voce di un bicentenario. Era usurata, ma l'importante fu anche per Rick Rubin, per dare il battesimo appunto alla nuova etichetta. Si chiamava American Recordings, mentre prima era Def Jam, un suono molto più hip hop. My life.

Mi dimentico sempre di dirlo in apertura, ma abbiamo anche un numero di SMS. 348-76-49-289. Lo ricordo, 348-76-49-289. Troppo professionale, boh. Forse per This is not an exit, sì. Comunque noi andiamo avanti. In sottofondo Torakiki con il suo nuovo album, è uscito fresco fresco, c'è anche una recensione, ci ha portato pure Rockerilla con tante recensioni, quindi potete anche ascoltare se vi piace. Non ci azzecca niente con il Black Crowes, ma a noi piace così. Potete anche comprarvelo. E comunque con il dottor Torakiki volevo parlare un po' anche di Giappone in generale, perché se c'è una cosa strana dei giapponesi, strana, diversa dalla nostra cultura tipicamente europea, occidentale e americana, è che loro penso non gliene sia mai importato più di tanto di copiare a mani basse, partendo dalle onde che copiavano le moto inglesi e italiane, venendo su ai musicisti come anche Acid Mother Temple, ma tanti che copiavano i gruppi psichedelici inglesi e tedeschi, ma tanti altri gruppi, poi fino a degli eccessi come gruppi giapponesi che cantano in italiano hardcore punk facendo testi praticamente uguali a in negazione, ma queste sono cose che succedono tuttora. Oppure mi ricordo Guitar Wolf, sempre degli anni 90, che facevano garage punk furioso, sembrava un gruppo punk degli anni 70. Non gliene è mai fregato niente, sembrava anzi dei cloni. Oppure tutto il recupero che avevano fatto della musica, delle colonne sonore, dei film di serie B, quelli con la Fennec, per intenderci, degli anni 70, italiani e gli equivalenti francesi, Pizzicato 5, per dirne una. C'erano un sacco di gruppi che facevano queste cose e non è che lo facessero mettendoci più di tanto del loro, anzi lo sforzo sembrava essere quello di rifare le canzoni il più simile possibile agli originali, mentre qua, perlomeno sicuramente negli Stati Uniti, dove il concetto di unicità, di genuinità era tipico dell'hardcore ed era molto importante, si vedeva bene anche quando ci tenessero i gruppi a suonare bene dal vivo. E poi l'idea di originalità è venuta dopo il punk, ma anche prima, in realtà molto prima, se pensiamo a tutta la musica degli anni 60 e 70, aveva questa idea di rinnovamento. In Giappone no, e appunto suonava ancora più strano che proprio un gruppo americano del sud recuperasse a Pio di ventenni, perché i fratelli Robinson, che erano le due anime, cantante e chitarrista dei Black Crowes, avevano intorno ai vent'anni e recuperassero proprio queste cose. Beh, alla fine era la musica, era la loro musica, il padre era musicista comunque. Se non sbaglio, aveva anche un discreto successo, negli anni 60. E secondo me, alla fine si tratta di sano rock and roll. Cioè, per un americano, secondo me non c'è un genere che un americano potrebbe suonare meglio che del rock and roll. E questo fatto di riportare le lancette dell'orologio indietro nel tempo, cioè indietro ai Led Zeppelin o agli Allman Brothers o tutta quel filone rock psichedelico degli anni 60 è stata una grande intuizione. Thank you. grandissimi. Beh sì, soprattutto dal vivo, per chi mai li avesse visti, i Black Crowes, lo ricordiamo, la puntata dedicata a loro e a tutto il revival Southern Rock americano. Ma cos'è il Southern Rock? Tra l'altro, un genere che affiora più o meno negli anni 70, ma affonda le radici nel blues del Delta, si va molto più indietro. Vogliamo fare gli accademici? No, diciamo due cose e poi rimettiamo la musica. Allora un rock incazzato. Un rock incazzato. Per non essere accademici. Ma perché da noi è arrivato tramite Rolling Stones, c'è poco da fare, che l'hanno preso a piene mani negli anni 60 fino ad arrivare ad Exile on Main Street, che era proprio praticamente un disco blues rock. I Rolling Stones infatti hanno il grande pregio di aver riscoperto un po' quella musica povera americana che in Europa non arriva, altrimenti non arrivava. Cioè, il famoso aneddoto di Rolling Stones, di Mick Jagger, che arriva negli studi della Chess Records e trova i vari artisti, i vari bluesmen a ridipingere le pareti degli studi della Chess, della casa discografica, della Chess, che ricordo era una delle case discografiche che più aveva pubblicato blues fino a partire dagli anni 40, immagino. Sì, tutto il vecchio blues. Poi negli anni 60 è andata presto, come dire, a rotoli, schiacciata dal rock and roll, che poi sono tutti quegli adagi blues che poi sono diventati i riff cari a Jimmy Page una volta arrivati a Londra. Quei dischi sono poi stati ascoltati da tutti i musicisti che nel 68, dal 66 in poi, li hanno rimasticati e risuonati tutti. E poi il cerchio si sarebbe chiuso, perché poi Jimmy Page, lo ricordiamo a questo punto, nel 99 fa un disco con i Black Crowes. Infatti non a caso, secondo me i Black Crowes alla fine sono stati, di tutto questo revival che c'è stato, gli epigoni più importanti in quel periodo lì. Erano due fratelli, sapevano suonare, avevano messo su una band dal nulla praticamente, e Jimmy Page queste cose piacciono evidentemente. Seppur Chris Robinson sembra che venisse dal punk. Sì, Rich Robinson in realtà, dei due fratelli l'altro, scusa, chitarrista. Sì, veniva dal punk come ascoltatore, come fan prima di tutto, e se li era visti tutti i concerti in quel periodo e ascoltati tutti i dischi di quel periodo, tra i suoi gruppi preferiti gli ex, i Dead Kennedys, ma soprattutto i Black Flag, tanto più che nel primo disco dei Black Rose c'è un pezzo che si intitola Jealous Again, ma che non ha niente a che vedere con i Black Flag a parte il titolo. rimettiamo insieme la vecchia banda. Facciamo qualche serata, facciamo un po' di grana, bang! 5.000 bigliettoni. Sì, ma rimettere insieme la banda, insomma, non è mica tanto facile, Jack. Ma che stai dicendo? Si sono sciolti. Ora fanno tutti i lavori rispettabili. Ah sì? Comunque tu lo sai dove stanno? Avevi detto che ti tenevi in contatto con loro. Beh, un paio di contatti ce l'ho. Qualche numero di telefono. Ma poi scusa, quanti ti hanno scritto o ti sono venuti a trovare in galera, eh? Ma dai, non è gente che scrive lettere, quella. Beh sì, c'è poco da fare. I Blues Brothers sì che avevano recuperato tutto, ed è vero, forse quello che dice. Tutti fanno lavori rispettabili, perché suonare blues non era un lavoro rispettabile e soprattutto probabilmente non pagava più. C'è anche il pezzo di Pino Daniele, quello: sono un cantante di blues, mi vesto male. Il ecco appunto, se lo dice Pino. Comunque c'è poco da fare, grazie ai Blues Brothers un sacco di gente aveva scoperto canzoni che tutti credevamo, almeno noi in Italia, io e i miei amici, tutti quanti, i ragazzetti, avevamo tutte le cassettine dei Blues Brothers e tutti credevamo fossero canzoni scritte dai Blues Brothers. Mm-hmm. E invece neanche una, erano tutti pezzi storici degli anni 40, 50, 60. Non a caso nel film compare anche Cab Calloway, che addirittura si va indietro dal jazz blues degli anni 20. Quindi le radici sono altro che storiche per questa puntata. Si va indietro non nel 88-93, che è il nostro solito periodo di osservazione, ma si va indietro di 90 anni. Sì, sì, è il rock dei ragazzini bianchi, che hanno, americani bianchi, che hanno... Hanno rubato la chitarra a Charlie Patton e a Led Belly. Hanno rubato la chitarra allo schiavo nel cortile. Eh sì, si sono messi a suonare. Probabilmente sì, ci hanno aggiunto un po' di... si sente nei pezzi dei... Ma perché anche il Black Crowes. L'accezione Southern è proprio questa qui, cioè di il sud degli Stati Uniti, la parte più depressa, più ignorante, povera. Anche più povera, in cui tutto quanto è un po' più esasperato, tra cui anche il rock e il rock blues. Era anche la parte degli Stati Uniti dove fino a un secolo fa o poco più c'era una finta segregazione, quantomeno mascherata anche se illegale. Poi fino al 1870 c'era la tratta degli schiavi, fino a Lincoln, fino al 1870 c'è stata la guerra di secessione e i contrasti più forti, ma tuttora sono nelle città grandi del sud o comunque nelle città dove c'è molto contrasto tra bianchi e neri, probabilmente un'eredità. Qualcuno ne ha tratto giovamento, musicisti blues salivano a Chicago, mm-hmm, e cominciavano a suonare per le strade. Poi da lì, sì, la commistione con i bianchi, chissà com'è andata. Ma si dirà così, mi fa venire in mente il film Easy Rider, in cui l'avventura dei due fricchettoni americani che vogliono andare a sud per andare a New Orleans, perché è una città mitica, fantastica. Alla fine, vi svelo il finale, tanto immagino che l'avreste visto a casa, vengono uccisi proprio da un camionista nei dintorni di New Orleans, no? Da due redneck, cioè da due contadini col collo bruciato, bianchi e biondissimi. 22 minuti primi, siete sempre su Radio Città del Capo, questa è This Is Not An Exit, siamo sempre tra 88 e 93, a qualcuno magari è venuto un dubbio, ha sbagliato stazione, si è sintonizzato in streaming, soprattutto se in streaming, su una radio che mette solo country blues americana e ce ne sono penso un centinaio più che fanno solo country tutto il giorno, tutti i giorni da 30 anni o 40, se mai vi è capitato di andare negli Stati Uniti, ma ovunque, in tutto il territorio. Invece no, siete su Radio Città del Capo in diretta e questo non è una band fuori periodo, no, è una band che esplose proprio e che esplosione, vendette milionate di dischi in tutto il mondo. Nel 90, il secondo disco è del 92, erano poi tutti da Rick Rubin e poi fece addirittura un terzo, si chiamava Amorica, insomma erano dichiaratamente revivalisti, spezzando totalmente con una tradizione di innovazione o di gente che ci provava. Ne abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti, anche nell'ultima, soprattutto nell'ultima, quando parlavamo di Cop Shoot Cop e del loro sforzo estremo di provare a innovare quello che era già stato innovato, rinnovato n volte, soprattutto loro che erano a New York e andavano a suonare a CBGB's, dove lo spettatore medio del CBGB's aveva già visto tutto, perché aveva visto dai Ramones in avanti tantissime mode o comunque scie musicali a affastellarsi una sopra l'altra, e loro stessi a un certo punto usavano anche un po' di ironia per cercare di far capire che loro ce la mettevano tutti, ma ormai il pubblico era un po' disincantato. Infatti i Black Crowes ebbero numericamente ragione. Anche, però non ha mai suonato al CBGB i Black Crowes. Diventarono troppo grossi troppo presto. Forse no, il pubblico non ci entrava. No, infatti, penso che loro erano da subito un po' come Crosby, Stills, Nash e Young negli anni 60, erano già da almeno mille persone ai primi concerti. Forti anche forse della presenza di, come diciamo all'inizio, di questo sottobosco, chiamiamolo sottobosco, di radio e comunque questa cultura tipicamente americana di country rock, che Tom Petty non è che fosse andato in pensione, ecco, anzi, penso che partecipò anche a un loro disco, insomma. Ma forse faceva anche, era anche sempre Rick Rubin che scoprì anche Tom Petty. Rick Rubin riscoprì a sua volta negli anni 80 Tom Petty. No, un gran lavoro, non c'è che dire. Va bene, con questo siamo ai saluti, ringraziamo Torakiki e il suo disco, anzi, vi che ci sei, di dove è possibile trovarlo. Beh sì, in sottofondo state ascoltando Avesom, che è il primo lavoro di Torakiki, che uscirà il 26 febbraio in realtà. Addirittura un'anteprima per noi che siamo dei nostalgici. Un piccolo regalo a Città del Capo, a This Is Not An Exit. E quindi lo troverete poi dal 26 in poi su tutti i principali store musicali e ci vediamo in giro per Bologna per piccoli concerti che ci saranno. Va bene. State attenzione. Ok, ringraziamo tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici per la pazienza. A giovedì prossimo a questo punto. Grazie a Matteo, grazie a Rosario e a Valeria in regia e anche ad Alessandra che è qua in studio con noi, silenziosa. Ma salutiamo tutti e buona serata con i Black Crowes. Bella. Ciao.